David Cronenberg, regista di celebri film horror come La zona morta, Il pasto nudo o La mosca, debutta a 71 anni come scrittore con il romanzo Divorati. Nel libro ritroviamo molti degli elementi che caratterizzano il suo cinema, come le deformazioni e le trasformazioni del corpo e della mente, le perversioni sessuali e l'ossessione per la tecnologia. In queste righe Nathan, un fotogiornalista, intervista una malata terminale e le spiega come la tecnologia abbia cambiato non solo il giornalismo, ma anche il rapporto con la malattia e la morte. Dunia era distesa, con la testa sollevata, in un letto della sala post-operatoria, nel seminterrato della clinica Molnar. Ce n'erano una decina di letti, scheletrici e rudimentali, sinistri, ma lei e Nathan erano da soli. Dunia era ancora trasognata, anche se Nathan sospettava che fosse sfinimento emotivo, più che l'effetto dell'anestetico. Gli rivolse un cenno della testa. «Non mi aspettavo la macchina fotografica, in sala operatoria». Pensavo che avresti soltanto preso appunti su un taccuino, come un normale giornalista. Ormai siamo tutti fotogiornalisti. Scrivere e basta non è più sufficiente. Dobbiamo produrre immagini, audio, video. Spero che non ti dispiaccia. No, non mi dispiace. Presto non rimarranno che quelli. E allora, più ce n'è, meglio è. Qualcosa che manterrà il mio ricordo. Non ho ancora ben capito di cosa parlerà il pezzo che sto scrivendo, ma ci sono abituato. Sollevò la macchina fotografica. Posso fartene una? Perché no? «Mettile in internet e manda queste immagini di me nell'universo, dove proseguirò la mia esistenza extracorporea». Controllato l'esposimetro attraverso il mirino, Nathan alzò la sensibilità ISO fino al massimo di 25.600. Le foto sarebbero state estremamente sporche, sgranate e macchiate, ma avrebbero avuto un gusto pittorico, puntinista magari, o espressionista. La macchina gli sembrava in qualche modo ancora più sensuale, più strumento, con quel settaggio. Dunia fece un sospiro. Ovviamente sarò non al meglio in eterno. C'è qualche posa particolare che vuoi? Non sono timida. Per la verità non voglio che ti metta in posa. Stiamo fingendo che tu sia ignara della mia presenza. Nathan si alzò e cominciò a muoversi intorno a lei scattando con il diaframma completamente aperto e bassissima profondità di campo, mentre le fluttuanti immagini del viso della donna si imprimevano direttamente sul suo cervello. Dunia aveva gli occhi di un nero cremoso e sembrava capace di guardare verso l'obiettivo come se non lo notasse. Incredibile. Nathan si interruppe, tornò alla borsa con l'attrezzatura e ci frugò dentro alla ricerca di un flash. Giusto per avere le spalle coperte ne scattò qualcuna con un po' di flash diffuso. Non c'è molta luce qui dentro. Inserì la base del flash nella slitta e lo fissò. Possiamo riprendere come stavi facendo prima. Oh, ma adesso con questo flash mi sembra di essere una stella del cinema, disse Dunia. E voglio che tu veda la parte migliore di me. Si aprì il camice e mostrò il seno, coperto di lividi e costellato di gonfi puntini rossi. Nathan smise immediatamente di scattare. «Che c'è?» domandò lei. «Troppo brutto? Troppo raccapricciante?» «No, anzi, è... troppo sexy. In senso feticista. O qualcosa del genere. Forse è troppo Helmut Newton. Non saprei come usarlo per un articolo medico». «E allora scattane qualcuna solo per te», disse Dunia. «Così posso lasciarti un ricordo migliore». Sorrise il più caldo dei sorrisi, poi dai suoi occhi cominciarono a stillare lacrime. Non le asciugò. Funziona anche sott'acqua la tua macchina? Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal romanzo di David Cronenberg, Divorati, Bompiani, 350 pagine, 18,50 €. Nella sua prima autobiografia, Thomas Millian racconta non solo i suoi 50 anni di carriera cinematografica, ma anche quello di cui si conosce ben poco: la sua vita privata, l'infanzia a Cuba e il dramma di aver dovuto assistere al suicidio del padre, la fuga negli Stati Uniti e l'arrivo in Italia, la solitudine, i problemi con l'alcol e la droga. E poi c'è il Monnezza, il personaggio che l'ha reso famoso e che lui dichiara di amare più di se stesso. Ciò che mi interessava era diventare, tramite Ermonnezza, membro di un popolo che sdrammatizzava le tragedie con il sorriso, che attraverso il potere della risata esorcizzava i propri demoni. Una volta una giornalista mi domandò il perché delle parolacce. Le dissi che le parolacce erano rivoluzionarie e utili al tempo stesso. Il Monnezza, per esempio, aveva anche una ricetta contro la droga.